Capitolo 33. L'arrivo a Basilea fu caratterizzato da tanta fretta e un gran trambusto. La mezz'ora di anticipo con cui sarebbero dovuti arrivare, infatti, si era assottigliata a 4 minuti per un inspiegabile allentarsi delle maglie della disciplina tedesca. Di fronte alla richiesta di spiegazioni, il capotreno rispose che il motore aveva avuto dei problemi e aggiunse con una scrollata di spalle che mal dissimulava l'onta per quel fallimento dell'infallibile. Che tutto sommato anche i motori, in quanto prodotti umani, potevano errare. Seguì un poco decoroso correre su e giù da rampe di scale e lungo binari ferroviari e infine l'approdo al loro vagone con il fiato mozzo, sospinti dai facchini, appena in tempo per ritrovarsi in uno scompartimento occupato in gran parte da svizzeri dormienti. Ingram lasciò temporaneamente Ingeborg seduta sul bordo di un sedile, aggrappata al proprio ombrello, al cappotto e alla borsetta, e prese a esplorare il treno in cerca di una sistemazione più spaziosa, rifiutandosi di accettare una sventura così sciagurata come il dover viaggiare fino a Bellinzona con 4 svizzeri addormentati. Tutti i posti, però, erano già occupati. Pensò che si trattasse di un treno particolarmente economico, oppure che un festival nazionale o qualche altro evento di gran richiamo spingesse la gente a viaggiare a frotte proprio quella sera. Tornò da Ingeborg con l'aria tetra e risentita. I 4 svizzeri dormivano ai 4 angoli e lo scompartimento odorava di avanzi di spuntini. Quando aprì il finestrino, i 4 svizzeri risorsero all'unisono in un empito di stizza e vitalità. Ingram, che parlava di francese con grande scioltezza, rispose con un'altrettanta loquacità, appoggiandosi con la schiena al finestrino aperto per proteggerlo dai loro assalti, mentre Ingeborg fissava la scena allarmata. Il controllore, però, quando li raggiunse, si pronunciò in favore dei 4 svizzeri, i quali, subito pacificati, ricaddero all'istante in un sonno profondo. Ingram, allora, senza curarsi minimamente delle loro gambe allungate, si guadagnò il passaggio sino al corridoio, dove rimase a osservare il panorama notturno, maledicendosi per non aver pernottato a Basilea. Ingeborg, dal canto suo, adocchiava con ansia la sua schiena, da sopra il proprio cappotto e l'ombrello. Ingram era talmente inviperito e stremato che da Basilea a Lucerna fu a malapena consapevole della presenza di lei. Poi a Lucerna, 2 dei 4 svizzeri scesero dal treno. Quando si voltò alla vita addormentata nello scompartimento, leggermente reclinata su un fianco, ma pur sempre ancorata ai suoi effetti personali, sentì il proprio cuore traboccare nuovamente di tenerezza. Era in balia di un sonno profondo, nella più scomoda delle posizioni, e crollata da un lato rispetto alla posizione in cui si era seduta come solo un cucciolo o un bambino avrebbero potuto fare. Entrò nello scompartimento, sedette accanto a lei e le sollevò il capo delicatamente per poggiarlo al proprio braccio. Ingeborg aprì gli occhi e con espressione stupita fece correre lo sguardo dalla manica sino al viso senza muoversi. «Siamo a Lucerna!» le sussurrò chinandosi. «Oh, quant'era morbida e piccina!» «Davvero? Qui è dove io e Robert...» Ma si era già riaddormentata. Ingeborg, avendo dormito fino al momento in cui egli l'aveva svegliata poco prima di Bellinzona, si era persa l'attimo che attendeva con grande trepidazione, quello in cui, all'approssimarsi dell'alba nella mattina estiva, sarebbe sbucata dall'altra parte del San Gottardo, dove, nonostante quanto sostenessero gli svizzeri, vi era l'Italia. Ancora mezzo addormentata, infilandosi il cappello con gesti meccanici e fermandosi un attimo per stropicciarsi via il sonno dagli occhi, mentre lui le ingiungeva di far presto, aveva mancato di realizzare dove si trovasse. Quando, dopo aver scrutato con aria ansiosa fuori dal finestrino, prese infine atto di essere in Italia, si girò immediatamente verso di lui in totale costernazione. «Oh!» disse. «Sì!» rispose Ingra, passandosi velocemente la mano fra i capelli, un gesto che denotava irritazione. Pioveva. Discesero in quella che apparve loro la stazione più malinconica del mondo, un punto di interscambio ferroviario grigio e grondante d'acqua, con un cielo piatto altrettanto livido che incombeva sull'intero paesaggio circostante. Il treno per Locarno non era ancora partito, vi si diressero in silenzio. Erano le 6:15 del mattino, un orario della giornata particolarmente difficile. Il treno quasi vuoto avanzava lentamente attraverso la valle del Ticino. Gocce di pioggia si inseguivano lungo il finestrino. Sulla strada che fiancheggiava la ferrovia, diretta anch'essa a Locarno e intristita da numerose pozzanghere di fango, arrancava un altro carro trainato da un mulo e guidato da un individuo raggomitolato che tentava di ripararsi sotto un enorme ombrello. Il lago, quando si profilò alla loro vista, era un abisso di nebbia. Ingeborg osservava tutto in silenzio. Le sembrava incredibile che quella fosse l'Italia, di nuovo a dispetto di ciò che affermavano gli svizzeri. mentre al di là delle Alpi tutta la Germania, inclusa Köckensee, era immersa nella luce e nel colore. Ingram sedeva nell'angolo più distante dello scompartimento, le mani ficcate in tasca e il cappello ben tirato sugli occhi, guardando fisso di fronte a sé. Sul suo viso si leggeva una sterminata e profonda esasperazione. Ogni cosa lo esasperava, persino l'incessante filo d'acqua che colava dall'ombrello bagnato di Ingeborg sul pavimento, dirigendosi verso di lui. In quel momento tutto quanto lei avrebbe potuto dire o fare avrebbe avuto il solo effetto di attizzare ulteriormente la sua esasperazione, facendola sfociare in una serie di battute rapide e colleriche. Ma fortunatamente Ingeborg non diceva né faceva nulla, limitandosi a star seduta con il viso rivolto verso i finestrini appannati. Nonostante ciò, ella era pur sempre presente e Ingram era penosamente consapevole, sebbene non distogliesse nemmeno per un istante lo sguardo dai cuscini posti davanti a lui, della sua persona, che in quella luce orribile risaltava in ogni crudo dettaglio. I vestiti stazzonati, la patina di polvere e fuliggine che la insozzava, il cappello flosciato in più punti e la chioma scarmigliata e divisa in ciocche scomposte. Aveva desiderato mostrarle l'Italia nel suo splendore estivo, l'aveva desiderato con tutto il cuore. Ecco invece ciò che si presentava ai suoi occhi. E il bizzarro risultato era che gli veniva voglia di rimproverare lei. Non si diede pena di analizzare il perché. All'albergo di Locarno, dove si diressero per fare un bagno e la colazione, originariamente Ingram aveva progettato di mostrarle la stupenda passeggiata che partiva di lì e costeggiava il lago fino a Cannobio, ma ora, al di là del bagno e della colazione, non aveva altri progetti. Un individuo in maniche di camicia con indosso un grembiule verde, che poco adeguatamente gestiva la reception in mancanza del portiere, ancora assente non essendo suonate le 7, ebbe la poco felice idea di indicare Ingram a Ingeborg con la formula Monsieur Beaupère. Ingram se ne ebbe male. È per via della tua gonna corta, affermò con malcelato astio. Vestita in quel modo fai pensare a una bimbetta con il grembiulino. Ma si tratta del mio vestito migliore, protestò. È nuovo. Intendo dire che da quando è stato fatto non l'ho mai indossato. E quella disinvolta mancanza di tatto di una persona che non ha ancora imparato a temere nulla, lo guardò e si mise a ridere. Com'è possibile che quest'oggi sono una bimbetta con il grembiulino, mentre non più tardi di ieri sera ero niente meno che la pace di Dio? Gli domandò. Egli non si prese nemmeno la briga di risponderle, ma si dileguò con un balzo in direzione della sua stanza. Si presentò a colazione bell'ustro, ma ancora in una disposizione d'animo in cui tutto gli riusciva insopportabile, soprattutto l'allegria altrui. Ingeborg invece era per sua natura sempre di buon umore. Sedeva al tavolo fresca come una rosa, compiaciuta e determinata a trarre il meglio dalla situazione. Dopotutto, pensò lui con risentimento, sul treno lei aveva dormito 5 ore, mentre lui non aveva chiuso occhio nemmeno per un attimo. Gli fece notare quanto fosse forte il caffè e fragrante il pane. Gli chiese se non pensasse anche lui che si trovassero in un bel albergo. Non convenne con lui quando alluse al cameriere come a un buono a nulla. Predisse che alle 11 il tempo si sarebbe ristabilito, spiegando quella previsione con il detto che la sua vecchia bambinaia soleva ripeterle, cioè che se alle 7 del mattino pioggia scende, più tardi alle 11 il sole splende. Egli sentì di odiare la vecchia bambinaia. Sapeva che fino a quando non si fosse concesso un lungo e ininterrotto sonno al ristoratore non sarebbe stato altro che un fascio di nervi contratti. Dopo colazione, con l'aria festosa e l'apparenza di essere pronta a tutto, lei gli chiese quale sarebbe stata la loro prossima mossa e lui le annunciò laconicamente che sarebbe andato a dormire. Dovrò andarci anch'io, gli chiese, l'espressione improvvisamente abbattuta. È ovvio che no. Allora gli comunicò in toni entusiastici: uscirò e andrò a esplorare. Sotto questa pioggia, ma mi sono portata le galosce. Galosce! E senza ulteriore indugio, Ingram si ritirò in camera. Si sentiva notevolmente irritato, vedendola non solo pronta, ma anche ben lieta di avviarsi senza di lui per la sua prima passeggiata in Italia. Si gettò sul letto con rabbia, suonò il campanello e ordinò al cameriere, lo stesso giovanotto in maniche di camicia e grembiule verde che li aveva accolti all'arrivo, di dire a Madame che se non si fosse svegliato in tempo, lei non avrebbe dovuto aspettarlo e che pranzasse pure all'ora più appropriata. Il giovanotto trovò Ingeborg nella sua camera, con un piede sulla sedia, intenta a strattonare le galosce per calzarle, il viso arrossato per lo sforzo e per la trepidazione di scoprire ciò che la attendeva fuori. Monsieur Beaupère, esordì, ce n'est pas mon père, Lo corresse Ingeborg, voltando verso di lui il viso dall'espressione divertita, ma non cessando di strattonare. Monsieur, votre mari? Oui, certainement pas, affermò Ingeborg, che nonostante il premio in francese non si districava bene fra le insidiose sottigliezze di quella lingua. Ce n'est pas mon mari, asserì, ripudiando energicamente quell'ipotesi. Ah, monsieur n'est pas le mari de madame, ribadì esitante il giovane. Certainement pas, disse Ingeborg. Mon mari est à la maison. Ah, tiens, ribatté il cameriere. Siamo un ami, lo informò Ingeborg. Ah, tiens, tiens, egli ripeté. Indi riferì il messaggio con un improvviso agio e spigliatezza. Ma se i modi del giovane divennero più spigliati, quelli degli albergatori, dopo che egli ebbe riferito ciò che aveva preso, si fecero sempre più rigidi. Infatti, sul modulo presentato a Ingram per la registrazione al momento dell'arrivo, egli, inconsapevole di ciò che Ingeborg sarebbe andata raccontando, aveva descritto loro due come il signore e la signora Dobson. L'albergo, in cui si celebravano funzioni religiose della chiesa protestante, che in quel momento, nonostante la stagione turistica ormai conclusa, ospitava parecchi zitelli inglesi, oltre a un ecclesiastico, anche gli inglesi con moglie e figlie ormai cresciute. Tutte persone rispettabili che avevano l'abitudine di uscire insieme due volte al giorno per una breve passeggiata, una dopo colazione e una dopo il tè. Decise, al termine di una riunione dei responsabili presso i locali della direzione, che pur servendosi di una ragguardevole dose di tatto, avrebbe incoraggiato i Dobson alla partenza. Tuttavia, per il momento non era possibile procedere, dato che la signora si era eclissata sotto la pioggia con il sombrello e il gentiluomo, come era possibile udire, stava dormendo. Tale condizione durò per parecchie ore, dato che la signora non tornò per pranzo ma rimase fuori, sotto l'acqua, e il gentiluomo, come era ancora possibile udire, continuava imperterrito a dormire nella sua stanza. Solo più tardi la direzione si accorse che due ospiti stavano prendendo il tè nell'angolo più remoto di quella giungla selvaggia di tavoli e sedie di bambù, che nel dépliant dell'albergo veniva presentata come l'elegante sala da tè Il Palmetto. Si erano presi la libertà di accostare al tavolo apparecchiato per il tè un secondo tavolo, dove avevano posato poco accortamente alcuni massi di ginestre gialle gocciolanti che crescevano in quella zona sulle colline. Il loro comportamento veniva osservato con sospetto dagli ospiti registrati sotto vero nome, persone avvezze a sorbire il tè e immersi in quel silenzioso torpore tipico delle coppie sposate, dato che il gentiluomo, contrariamente all'abitudine invariabilmente mostrata dai veri mariti, parlava alla signora invece che leggere il Daily Mail. La direzione non era certo impreparata, era in grado di trattare con competenza qualsiasi genere di situazione, dalle coppie in fuga al tipo di ospite più sgradevole, vale a dire quello che arrivava all'albergo vivo e ne usciva morto. Con gran tatto lasciò che il gentiluomo e la signora finissero il loro tè, poi inviarono da loro un incaricato da modi melliflui per informarli che malauguratamente le loro camere erano state prenotate da tempo per quella notte e che pertanto. Ma persino prima che costui potesse terminare di dar mostra della propria competenza e abilità in tali questioni, il gentiluomo richiese di avere una carrozza pronta nel giro di mezz'ora, data la loro intenzione di lasciare l'albergo quello stesso pomeriggio. Il commiato quindi avvenne, come si conviene, in toni di grande urbanità. Il direttore, ora in grado di esibire tutta la propria amabilità, rimase ritto sulla soglia, si produsse in un inchino e augurò buon viaggio ai due ospiti in partenza. I Dobson lasciarono l'albergo di buon umore, con i rami di ginestra gialla che ballonzolavano in mezzo a loro sbucando dal bordo di un telo impermeabile. Ingram la stava conducendo a Cannobio, lungo la strada che aveva sperato di mostrarle sotto il sole, ma Ingeborg, che si era arrampicata su per le colline fino a quando aveva sentito il sangue esultare e accelerare la corsa, e che aveva la capacità di vedere forme di bellezza ovunque, persino sotto la pioggia battente, era convinta che il sole non avrebbe potuto migliorare di una virgola tanta bellezza. Una volta fuori Locarno, in quella radura piatta ed erbosa che si incontrava lasciando la città, dove i dolci pendii pedemontani si ritraevano per un tratto allontanandosi dal lago, dove crescevano gigantesche rubechie e le strade sembravano intense pennellate di tempera bianca per via delle acacie in boccio, cessò di piovere. Ingram rimosse il cappuccio dalla testa. I monti che si stagliavano dall'altra parte del lago sfumavano nell'indaco e gonfi cirri bianchi aleggiavano presso le loro pendici, quasi a pelo d'acqua. Il lago era uno specchio di scuro acciaio. La vegetazione di tutta la valle si chinava sotto il peso di quel cupo rigoglio e i rami di ginestra che i due portavano con sé parevano intagliare il paesaggio malinconico lungo il loro cammino come una lama d'oro. L'unico dubbio che ho, affermò Ingeborg, inspirando grandi boccate d'aria tiepida e profumata, è se tutto questo non sia troppo bello per essere vero. No, non lo è, rispose Ingram, districandosi per un attimo dall'ingarbugliato effetto prodotto dall'azione della fatica, della polvere e del mal di capo sul suo entusiasmo iniziale. È assolutamente bello, è assolutamente vero. Ma solo, aggiunse voltandosi per guardarla, perché tu sei qui con me, cara compagna dei miei sogni. Senza di te non vi sarebbe nulla se non un immenso spazio grigio ove io vagherei senza meta. No! Non è vero, non potreste fare a meno di essere felice qui, disse abbracciando con lo sguardo il paesaggio circostante. Se tu non fossi qui con me, io non riuscirei a vedere, disse Ingram, credendo ciecamente a quanto andava asserendo, nella convinzione che la sua mente fosse scevra dal formulare pensieri erronei. Vedo tutto questo solo attraverso di te. Tu sei i miei occhi. Senza di te sarei cieco, barcollerei nel buio più fitto. Ancora non capisci ciò che sei per me. Mia piccola gemma di puro cristallo, ancora non riesci nemmeno a immaginarlo, mia cara dolcissima compagna infine ritrovata. Ma se soltanto questa mattina, disse Ingeborg sorridendogli, benché con un sorriso del tutto fugace, tanto rintenta a osservare tutto ciò che incontrava sul proprio cammino, sostenevate che era una bimbetta. Per un poco proseguirono in silenzio, dato che egli trovava deplorevole il trucchetto a cui lei ricorreva spesso, cioè quello di ricordargli le passate intemperanze. Ma dopo Ascona, dove i monti scendevano scoscesi, lasciando giusto uno spazio sufficiente alla strada di aprirsi un varco tra le loro pendici e la sponda del lago, si riprese un poco, consolato dalla gioia che lei manifestava per la bellezza di quella passeggiata e incapace di essere testimone di tanta felicità senza esserne contagiato. Dopotutto, ciò che più amava di Ingeborg era il fanciullino che, come per miracolo, era rimasto in lei. Un fanciullino con sprazzi di saggezza che dardeggiavano nella sua bocca come una lingua di lucertola e che si comportava in modo puerile. Era solo per brevi intervalli, intervalli d'argento e di raggi di sole. E nelle profondità del suo essere, lontano, nascosto in quel nucleo di luce accecante, vi era l'essenza sfuggente che tanto lo attraeva, cioè che presto avrebbe ritratto l'entità che tutto il suo essere anelava a raggiungere, il luogo ove sapeva si trovavano calore, comprensione e la sua piccola candida anima. La serata a Cannobio però si rivelò insoddisfacente. Ingeborg con ogni evidenza si divertì, ma il totale assorbimento in ciò che la circondava la rendeva dimentica della presenza di lui, un fenomeno che lui trovava eccessivo per non dire seccante. Vi erano tutti gli ingredienti per spingere due persone in totale felice intimità e iniziare a scambiarsi i teneri sussurri. Il calore, l'atmosfera crepuscolare, l'ombra generosa dei platani, lo specchio d'acqua calma, luci che romanticamente ammiccavano negli angoli più remoti. Un motivo pizzicato sulle corde di una chitarra in lontananza. Il riso, il canto e lo scintillio del vino provenienti da ogni tavolo illuminato di ristoranti sotto i portici, ai margini della piazza. E infine lui, Ingram. Dopotutto un personaggio di una certa importanza, sì, proprio Edward Ingram ai suoi piedi, che chiedeva solo di permettergli di spiegarle in ogni possibile modo quanto fosse meravigliosa. Ma lei pareva insensibile, inconsapevole della grande opportunità che le veniva offerta. Qualunque altra donna in Europa, si disse rabbiosamente, si sarebbe sentita indotta ai sussurri. Dopo cena passeggiarono e curiosarono un po' fuori dall'albergo, uno squadrato edificio italiano prospiciente il lago, situato nel punto in cui il centro abitato terminava e privo, come del resto anche Cannobio, della benché minima traccia di turisti inglesi di passaggio. In realtà egli non curiosò molto, dato che conosceva a menadito quei suoni e quelle luci italiane e che l'unica cosa che desiderasse davvero guardare in quel momento era Ingeborg. Persino il più insignificante dettaglio, però, catturava immediatamente la sua attenzione, distogliendola dal compagno di viaggio e impedendo l'ascolto concentrato delle dichiarazioni che lui snocciolava senza posa. Non nascose di preferire di gran lunga ascoltare lo sciabordio del battello proveniente dall'altra sponda piuttosto che le sue frasi appassionate, e arrivò fino al punto di interromperlo nel bel mezzo di una considerazione dei toni intimi che riguardava lei in prima persona, per arrestarsi in mezzo alla piazza e chiedergli che cosa ne pensasse di tutti quegli odori. Non ne penso proprio un bel niente, rispose con voce tagliente. Ma ce ne sono così tanti, esclamò, individuandone ognuno con il naso sollevato, in posa da intenditrice. Sento il profumo delle rose, quello del lago e l'odore della friggitura. E poi ancora rose, aglio. E qui ce n'è uno appena percettibile. Non riesco bene a capire. Penso che sia semplicemente il profumo dell'Italia. Non ho mai annusato tanti odori contemporaneamente, concluse con un gesto che esprimeva sorpresa. Ingram tentò di allontanarla da lì, conducendola verso una panchina posta sotto un platano. Vieni, siediti qui vicino a me, devo dirti alcune cose, tentò di allettarla. Guarda, la luna si è liberata dalle nuvole e vedi anche come le luci colorate di quel battello si riflettono sull'increspatura dell'acqua, moltiplicandosi all'infinito. E che ne pensi della carezza dell'aria, sorella mia? Non pensi anche tu che sia leggiadra e gentile? Non ti fa pensare a tutte le cose delicate? Sì, ma quello che mi piace di più sono gli odori, rispose completamente assorbita da essi. Ne distingo almeno una dozzina. Non importa, io voglio parlare. Ma sono così divertenti, dichiarò. Ve ne sono di interessanti, di emozionanti, di soavi, di inquietanti, di tremendi, di troppo meravigliosi. E tutti si ricorrono l'un l'altro, avanti e indietro, ininterrottamente attorno a noi. Egli si accese una sigaretta. Ecco, disse. L'odore del fumo li farà disperdere, così potrai parlarmi come si deve. Parliamo fin tanto che possiamo, mia cara. Tra non molto saremo morti, insensibili a ogni sentimento. Già, non saremo altro che materia in decomposizione, aggiunse placidamente. Dio mio, sprecare un tramonto come questo, disse alzandosi per estinguere con un colpo del piede il fiammifero che aveva gettato a terra. Se questi tramonti fossero miei, lo interruppe. Li terrei tutti in una galleria d'arte o nel mio portfolio. Non capire che momenti impagabili come questa sera, questo luogo, lo stare insieme, soli, sono cose che finiscono e si dimenticano, terminò. Io non le dimenticherò mai finché avrò vita, asserì Ingeborg con fervore. Tutti i miei altri ricordi saranno come collane infilate con perline di nessun conto, nocciole e pigne. Ma quando rievocherò tutto questo, ciò che splenderà sul filo della collana sarà una gemma preziosa. Davvero? Dici sul serio? Mormorò chinandosi per fissarla negli occhi, improvvisamente rianimato da quel discorso. Dici davvero, piccola fiamma del mio cuore? Oh, disse Ingeborg in tono sognante, con quella sua voce un po' roca, carezzevole. Certo, la gemma più preziosa, il gioiello più straordinario. La mia prima città italiana, Cannobio. Egli cessò di sentirsi rianimato. Fumava in totale silenzio. L'effetto dell'Italia su Ingeborg era tanto sorprendente quanto inaspettato. Sia Köken si era totalmente concentrata su di lui e lo ascoltava con grande attenzione, bevendo ogni sua parola e quasi venerandolo, in quel luogo sembrava posseduta dalla furia di godere di qualsiasi cosa o suono solo perché le era nuovo. Fin dalla loro partenza a Berlino vi erano stati dei momenti in cui si sentiva messo in secondo piano. Ora tale sensazione stava divenendo permanente, disturbandolo parecchio. Lo trovava incredibile, persino grottesco. Forse sarebbe stato saggio allontanarla dal lago, da quella regione che tanto colpiva il lato più sensibile della sua immaginazione. Chissà se portarla per un po' a Milano con le sue grandi vie lastricate e i musei. Mi potreste dare un po' di quel denaro? Gli chiese interrompendo il corso dei suoi pensieri. Quale denaro? Il mio? E per farne cosa? Desidero mandare a Robert una cartolina illustrata. Egli gettò la sua sigaretta lontano. Sarebbe alquanto inappropriato, rispose passandosi una mano fra i capelli. Assolutamente inappropriato. Inappropriato, ripeté Ingeborg fissandolo. Inappropriato mandare a Robert una cartolina illustrata. Del tutto, semplicemente non è cosa da farsi. Cosa? Non mandare a Robert? Ma sono certa che sarebbe felice di vedere a che punto del viaggio mi trovo. Per amor del cielo, non parlare di Robert! Esclamò alzandosi di scatto. L'idea della cartolina lo incolleriva profondamente. Non parlare di Robert, ripete lei fissandolo sbalordita. Ma è mio marito! Appunto! Ecco che cosa lo rende così inappropriato. Ma come? Credevo che i mariti fossero l'unico argomento che non può mai essere sconveniente. Ingeborg, durante questa vacanza, sono o non sono io che mi prendo cura di te? Stai o non stai viaggiando con me? Sì, certo, ma non vedo perché non dovrei inviare a Ro. Bene, allora, se non riesci a comprendere, vorrà dire che dovrai fidarti. Dovrai semplicemente fidarti di me quando ti dico che certe cose sono impossibili. Ma Robert, Dio santo, non parlarmi di Robert! Se ti prego di non farlo, se ti dico che sentirti parlare di Robert mi rovina ogni cosa, se te lo chiedo come favore. Si arrestò di fronte a lei. Mia cara, mia piccola. Compagna, mio tutto ciò che è importante e vitale in questo mondo grigio. Va bene, non lo farò allora, o perlomeno cercherò di non farlo. Si corresse, guardandola e sorridendo in modo che esprimeva sia sforzo che sorpresa. Ma non riesco a far capire perché mai una semplice cartolina. Il battello che avevano osservato a lungo, l'ultimo della giornata a compiere la traversata da Arona a Locarno, era in procinto di attraccare al molo. La piazza, all'improvviso, si popolò di gruppi che si apprestavano a salire a bordo e ad accomiatarsi. Andiamocene, disse Ingram con un moto di impazienza. Andiamo via, ripeté pestando con forza il piede a terra. Odio questa folla. Ingeborg si alzò per seguirlo verso l'albergo, gli occhi bassi. Vorrei proprio capire perché non dovrei spedire a Robert, attaccò nuovamente. Oh, al diavolo, Robert, esclamò lui con violenza. Lei lo fissò. Al diavolo Robert, ripeté assolutamente attonita. Ma Robert, non ti piace? No! Rispose Ingram. No! Ribadé ancora più forte. Non qui, non ora. E adesso? Non mi chiedere perché, non mi chiedere di spiegarti. Va a letto, Ingeborg. Tutti i bambini al di sotto dei 10 anni dovrebbero essere a letto a quest'ora. E domani, per favore, alzati per tempo. Partiamo al più presto per, non so, un altro posto. Capitolo 34. Ingram non era solo un gran pittore, ma anche un esperto in talenti minori e tra questi l'arte della fuga. Avendola messa in atto parecchie volte, aveva oramai conseguito una certa scioltezza, anzi, grazie alla lunga pratica di fuggire, gli risultava così facile che non doveva più nemmeno mettersi a correre, ma semplicemente allontanarsi senza fretta. Camminava in tutta calma, via da una moglie silente, verso una donna il cui ardore per lui, avendo ogni volta invariabilmente già raggiunto lo zenith, non poteva che incominciare a declinare. E non appena iniziava la fase calante, aiutata e incoraggiata in vari modi da Ingram stesso, che tra le numerose procedure di raffreddamento preferiva quella consistente nel manifestare la propria impazienza di ritornare al più presto alla pittura, liberandosi da ogni interferenza opera di soggetti secondari, ogni signora trovava raffreddante sentirsi definire un elemento secondario e gli evitava allora la parte più difficile, la parte in cui le recriminazioni tendevano ad addensarsi come nuvole al tramonto. E lavorandola ai fianchi con accurata manipolazione, circuiva la dama, trasformandola ad amante in una sorta di malata pervasa da un'acuta nostalgia di casa. Impercettibilmente per gradi, ella prendeva a bramare il ritorno in seno alla famiglia. Giungeva a desiderare con ardore. Tanta e tale era l'abilità di lui di tornare da suo marito, suo padre o chiunque altro ella avesse abbandonato. Oppure ancora invocava il verificarsi di guai, catastrofi, disgrazie, qualsiasi cosa, purché non fosse altro amore. Benché più povera di taluni ambiti, la dama si accomiatava da lui, di certo più ricca in filosofia, senza la minima gelosia verso i suoi progetti futuri e animata da un unico intendimento. Che questi ultimi non prevedessero anche la sua personale partecipazione. Così egli, sino all'occasione successiva in cui si sarebbe lasciato di nuovo allettare, a discostarsi dal cammino improntato al lavoro e all'austerità della speranza di aver trovato finalmente l'anima gemella, si godeva la condizione in cui era più felice, quella libertà di spirito che disdegnava l'amore. Ma com'era diversa quella fuga da quelle altre comode passeggiate che non gli riservavano altra sorpresa. E che nella loro transitoria salubrità lo riscaldavano come una tazza di pane e latte. Sì, diversa, dolorosamente diversa. Quasi ridicolmente diversa, se non fosse che lui non aveva nessuna voglia di ridere. Il primo passo, cioè il processo teso all'effettivo allontanamento da Coekensee per raggiungere Berlino, per lasciare la legalità ed entrare nella clandestinità, era stato semplice, privo di qualsiasi difficoltà. Ed egli aveva creduto che una volta soli, l'amoreggiare, ragione primaria del fuggire, altrimenti perché farlo, sarebbe seguito con altrettanta semplicità. Nulla, tuttavia, appariva in quel frangente meno incline a seguire. In realtà l'unica cosa che seguì furono 2 giornate esasperanti, durante le quali i suoi stati d'animo variavano con il passare delle ore, alla fine quasi dei minuti, secondo il tenore delle diverse frasi che lei pronunziava. Gli riusciva difficile capacitarsi dell'ampiezza della sua credulità e della sua ingenua buona fede, 2 attributi tanto sterminati quanto i suoi entusiasmi. Ingeborg aveva creduto ciecamente a ogni parola che lui le aveva detto lassù, a Kökensee, dove ovviamente bisognava pur dire qualcosa per dare un inizio al tutto, riguardo alle frequenti e del tutto fraterne escursioni compiute da altre persone. Era incredibile come lei avesse accettato così prontamente ogni sua argomentazione, convincendosi che giudicare sconveniente un viaggio svolto alla luce del sole verso qualsiasi destinazione e con qualsivoglia compagno sarebbe stato assurdo e meschino. Non siamo forse figli della luce, tu e io? Le aveva chiesto. Oh, le cose che un uomo era costretto a dire. Ora però non gli garbava che le argomentazioni adotte per persuaderla venissero inguainate nell'impenetrabile corazza della sua buona fede usate contro di lui. Non lasceremo contaminare le nostre peregrinazioni dai foschi scrupoli di coloro i quali hanno la coscienza sporca, gli ottusi, brancolanti figli del buio. Era chiaro che l'idea di compiere un atto scorretto non l'aveva nemmeno lontanamente sfiorata e che le basi sulle quali aveva costruito quel suo progetto di vacanza erano improntate a uno schietto cameratismo. Per lei non era affatto difficile, osservò Ingram, infinitamente turbato dalla costante vicinanza a Ingeborg, restare una semplice compagna di viaggio. Era così disinvolta nell'ambito di quella loro amicizia, così libera da altri pensieri a margine, che poteva permettersi di dirgli, e infatti lo faceva, cose che, dette da altre donne in quella stessa situazione, sarebbero equivalse a una dichiarazione d'amore. Ma Ingram, che era un amante esigente, non riusciva a corteggiarla, a lasciarsi ardito nell'impresa di conquistarlo e debellare quella sua assurda corazza fin tanto che lei si fosse dimostrata inconsapevole. Gli sarebbe sembrato di amoreggiare con un fanciullo oppure con una sedia. Era essenziale che lei mostrasse una reazione, una scintilla di consapevolezza. La sua cecità nei confronti dell'effettiva situazione invece rivelava una mente così scevra da pregiudizi da risultare agli occhi di Ingram quasi una menomazione. Sì, l'orribile ingenuità delle figlie dei vescovi e delle mogli dei pastori lo lasciava davvero sgomento. Per 3 giorni il maltempo continuò a imperversare, creando una cappa che gli premeva sugli occhi. Non riusciva a dormire, era un fascio di nervi scoperti. Ingeborg al mattino, un momento nella giornata in cui lui non la conosceva quasi, dato che a Kökensee si erano frequentati solo di pomeriggio, gli appariva diversa e in un certo qual modo, un modo leggermente irritante e anche aliena. Era forse perché al mattino le sembrava svolazzare ancora di più? Non gli riusciva di trovare un'espressione che rendesse l'idea meglio di quella. Ingeborg svolazzava. In generale sapeva bene che la tendenza di Ingeborg era svolazzare mentalmente in modo ininterrotto, riversando a ogni pensiero un brevissimo istante di considerazione per poi spostarsi subito con un frullio d'ali sotto un altro argomento. E se nel pomeriggio o nelle ore più calde e indulgenti della giornata, quel vagare errabondo dei suoi pensieri gli appariva spesso non privo di un certo fascino, al mattino non era così. Al mattino un uomo ha bisogno di qualcuno con i piedi per terra, un essere sensato e presente. Quale migliore accompagnamento, infatti, al caffè e al pane della colazione di una laconica ragionevolezza? Qualsiasi enunciazione, se proprio necessaria, avrebbe potuto quantomeno essere concisa. A colazione, invece, quella sua insopportabile aria sana e riposata dopo una notte che lui invece aveva trascorso rigirandosi nel letto, la sbalorditiva prontezza ad affrontare il nuovo giorno, quando lui non aveva nemmeno iniziato a riprendersi dal precedente, l'entusiasmo manifestato a intervalli regolari e la puntuale felicità erano tutti aspetti che gli davano sui nervi, impedendogli quasi di rivolgere la parola. Ogni sera, però, tornava a innamorarsi di lei. Ingram era esasperato. Sì, ritrovarsi con Ingeborg sulle colline lungo i laghi italiani, in un'immagine a lungo sognata e creduta piena di dolci momenti di intimità, era diventato sinonimo di pura esasperazione. A dire il vero, anche quella sera, quando non mancava mai di sentirsi innamorato di lei, una condizione che si poteva manifestare in qualsiasi momento dopo l'ora del tè e talvolta anche prima, se lei aveva l'accortezza di dire la cosa giusta, si sentiva innamorato in uno strano modo, un modo non del tutto privo di irritazione. Si chiedeva allora se gli avrebbe dato più soddisfazione baciarla oppure scrollarla per le spalle. E per quanto fastidiosa e indisponente fosse la sua inconsapevole sensualità, Di certo la sua gioia sfrenata per l'Italia lo era ancora di più. Chi non si sarebbe sentito amareggiato di fronte alla scoperta di essere diventato un semplice sfondo? Chi avrebbe mai immaginato che lei, che a Köken se lo considerava meraviglioso, era chiaramente conscia della sua importanza e gli passeggiava accanto tra i campi di segale, offrendogli ogni sorta di tributo con parole dolcissime? Una volta in Italia avrebbe preso lo sfondo che egli con tanta cura aveva scelto per il loro amoreggiamento e l'avrebbe stretto al cuore, totalmente assorbita in esso, addolorandolo oltre ragione e trasformandolo, lo stesso, Edward Ingram, nello sfondo di quella nuova situazione. Paradossalmente era diventato lo sfondo dello sfondo che aveva orchestrato con tanta cura. Quando la condusse su per le colline, in luoghi solitari dove i boschi di castagno ricoprivano il terreno per miglia e dove non si incontrava anima viva se non qualche occasionale carbonaio, Ingram aveva l'impressione, contrariamente a ogni evidenza, di non essere lì. Quando la portò in barca a vela sul lago per lasciarsi andare alla deriva, facendosi trasportare dal capriccio del vento, perdurava nel non sentirsi presente. Quando riposavano, dopo una salita particolarmente faticosa in un prato di erba alta, non ancora raggiunto dai contadini per la fiera ragione e attraverso i fiori predati dalle api, tra cui la scabiosa con i suoi capolini reclinati e i fragili fiori di cuculo, osservavano gli scampoli di lago giù, in basso, e i bianchi paesini sul versante opposto della montagna, quando tutto il mondo non chiedeva altro che di divenire la perfetta cornice del loro amore. Dov'era lui? Si chiedeva sconsolato nell'immagine che si formava nella mente e si radiava agli occhi di Ingeborg. Pur sapendo che lei era parecchio indietro a lui riguardo alla scoperta di nuove sensazioni, non avrebbe mai immaginato che il paesaggio l'avrebbe così avidamente assorbita. Fissandola, mentre lei a sua volta fissava ogni cosa ma non lui, decise che l'avrebbe portata a Milano. Avrebbe tentato con qualcosa di brutto. Se qualcosa al mondo fosse riuscita a restituirgli Ingeborg, sarebbe stata una Milano immersa nel caldo soffocante. Avrebbe alloggiato in una via dove vi fossero tram e rumore e avrebbero visitato i musei. Avrebbero camminato a lungo sui marciapiedi e pranzato nelle sale da tè inglesi. E mentre la cura veniva somministrata, Ingeborg avrebbe potuto procurarsi qualche vestito decente, dato che il suo guardaroba era davvero abominevole. Solo allora, quando Ingeborg fosse stata satura di ciò che la città offriva e ritornata pienamente consapevole della sua presenza, l'avrebbe portata a Venezia per mettersi al lavoro. Ah, il lavoro, il valore più importante della vita, l'unico aspetto che non la rendeva mai monotona, il suo significato supremo, sempre nuovo e gioioso. Venezia però gli faceva paura. Era troppo bella. Difficilmente Ingeborg sarebbe rimasta seduta immobile, in posa, mentre lui la ritraeva. Di certo avrebbe voluto uscire per vedere ogni cosa. Era impensabile condurla a Venezia sino a quando non fosse riuscito a oscurare ai suoi occhi ogni immagine del mondo, eccetto che la sua. Doveva compiere quel processo di oscuramento a Milano, in breve tempo. Moriva dalla voglia di tornare al lavoro. La brama di iniziare il grande dipinto era così acuta che sotto ogni sua emozione, desiderio e stato d'animo, dilagava l'esasperante frustrazione di essere impedito dall'iniziare la sua somma opera d'arte da ciò che il suo subconscio considerava con risentita scorrettezza una donna come tante. Fu la sera Luino che decise definitivamente di portarla a Milano. Quel giorno avevano camminato lungo i sentieri al margine dei boschi che conducono a Ponte Tresa. Ingeborg, ritornando a Luino e vedendola per la seconda volta una colonna girevole di cartoline esposte fuori da un tabaccaio e individuandone alcune che mostravano un luogo di rocce e di cascate d'acqua, ove lei e Ingram avevano consumato il loro pranzo, aveva avuto la tentazione di inviarne una a Robert. Non l'aveva detto apertamente, ma si era soffermata attorno alla colonna osservando le cartoline con bramosia. Le cartoline sembravano esercitare un fascino irresistibile su di lei, mentre un solo sguardo a quegli oggetti era per Ingram motivo sufficiente a fargli vedere rosso. Accortosi all'istante di quel famelico indugiare, si era scagliato in un rimbrotto più consono a un maestro elementare adirato che non ha un amante. Resosi conto egli stesso di quell'eccesso e lesto per natura a rivelare ogni emozione, aveva colto nello sguardo di lei un breve lampo interrogativo di sorpresa, ma anche di paura. Insomma, pare che tu non faccia altro che pensare a Robert, l'accusò sbottando, benché avesse inteso scusarsi. Non riuscì a evitare il tono rabbioso. No, non sempre, ribadì lei con fare incerto e con un sorriso che per la prima volta appariva propiziatorio. E poiché il percorso accidentato del marciapiede impediva loro di camminare fianco a fianco, Erla si ritrovò a fissare la sua schiena, le spalle esili e il profilo delle orecchie con un sentimento allarmato di totale estraneità. In fondo alla sua mente prese corpo la scintilla di un pensiero appena formulato e già sparito, un bisbiglio a malapena esalato e subito spento. Quanto sono abituata a Robert, però. Ingram decise di partire per Milano il giorno seguente. Sperava che quella città rumorosa, opprimente, e che la sua rovente anonimità l'avrebbe riportata alla consapevolezza della sua presenza e che la mancanza di ogni attrattiva l'avrebbe spinta fra le sue braccia. La trattenne sul battello, mostrandosi sordo e inesorabile di fronte alle sue preghiere di scendere a terra, ogni qualvolta giungevano ai ridenti paesini che punteggiavano la costa del lago dove il battello attraccava lungo il percorso. Ella trovava quel comportamento del tutto irragionevole. Perché mai arrivare fino a quei luoghi meravigliosi, giungervi così vicini da poterli quasi toccare e poi con uno scarto allontanarsene senza nemmeno dare un'occhiata? Non poté trattenersi dal pensare, dopo che lui si era rivolto a lei in modo brusco vicino alle isole Borromee, un'altra delle allettanti fermate compiute dal battello, quanto sarebbe stato splendido e divertente poter girovagare per quei luoghi da sola, libera di scendere a visitare ciò che le fosse piaciuto. Sì. Quelle sono isole, aveva detto acido non appena si accorse che Ingeborg le guardava estasiata. Sì, è possibile scendere a terra, ma noi non lo faremo. Sì, sono belle, ma noi dobbiamo prendere il treno.